Nonostante le tribolazioni della sua professione, la ragazza manteneva la freschezza dei suoi 20 anni e quel suo modo discreto e silenzioso di comportarsi, così diverso da quello delle compagne, non era privo di fascino. Non aveva nulla di civettuolo, era rotondetta, con un viso placido da vitella e mani forti da contadina. Paragonata alle altre colombe risultava la meno aggraziata, ma la sua pelle era luminosa e il suo sguardo dolce. Il fabbro non sapeva dire quando avesse iniziato a sognarla, a vederla nelle scintille della fucina, nella luce del metallo incandescente, nel cielo limpido, ma un giorno non era più riuscito a ignorare quella materia cotonosa che gli avvolgeva il cuore minacciando di soffocarlo. Una disgrazia peggiore che innamorarsi di quel genere di donna non poteva capitargli. Sarebbe stato impossibile giustificare quel sentimento agli occhi di Dio e della comunità. Determinato a vincere la tentazione con il sudore, si rinchiudeva nella forgia a lavorare come un pazzo e alcune notti i colpi feroci del suo martello si sentivano fino all'alba. Non appena ebbe un recapito fisso, Eliza scrisse a Tao Chien presso il ristorante cinese di Sacramento per comunicargli il suo nuovo nome, Elias Andieta, e per chiedergli consiglio su come combattere la dissenteria, dato che l'unico rimedio contro l'epidemia a lei noto, un pezzo di carne cruda legato all'ombelico con una fascia di lana rossa, come faceva mamma Fresia in Cile, non stava dando i risultati sperati. Sentiva dolorosamente la sua mancanza. A volte si svegliava abbracciata a Tom senza tribù, immaginando nello smarrimento del dormiveglia che fosse Tao Chien. Ma la riportava alla realtà l'odore di fumo del bambino. Non aveva niente della fresca fragranza di mare dell'amico. La distanza che li separava in miglia era breve, ma l'inclemenza del clima rendeva il percorso arduo e pericoloso. Pensò di accompagnare il postino per continuare a cercare Joaquin Andieta come aveva fatto altre volte, ma nell'attesa della circostanza propizia passarono settimane. Non era solo l'inverno a contrastare i suoi piani. In quei giorni era anche esplosa la tensione tra i minatori yankee e quelli cileni. Nella zona meridionale della Veta Madre, i gringo, stufi della presenza degli stranieri, si erano alleati per espellerli, ma gli altri avevano opposto resistenza, prima con le armi e poi grazie a un giudice che aveva riconosciuto i loro diritti. Lungi dall'intimidire gli aggressori, la decisione del giudice sortì l'effetto di istigarli ulteriormente. Diversi cileni finirono sulla forca o spinti in un burrone, e i sopravvissuti furono costretti alla fuga. Come risposta si formarono bande di assalitori, simili alle molte già costituite dai messicani. Eliza capì che non poteva correre tale rischio. Il suo travestimento da ragazzo latino era sufficiente perché fosse accusata di qualsiasi crimine, anche senza alcun fondamento. Alla fine del gennaio 1850 si abbatté una delle peggiori gelate che mai si fosse vista da quelle parti. Nessuno osava uscire di casa, il paese sembrava morto e per più di 10 giorni nemmeno un cliente si fece vedere al capannone. Il freddo era tale che, malgrado le stufe sempre accese, al mattino l'acqua dei catini era solidificata. Ci furono notti in cui dovettero far entrare in casa il cavallo di Eliza per risparmiargli la sorte di altri animali che all'alba si ritrovavano imprigionati in blocchi di ghiaccio. Le donne dormivano due per letto e lei con il bambino, per il quale aveva sviluppato un affetto geloso e intenso che lui ricambiava con sorniona fedeltà. L'unica persona della compagnia in grado di competere con Eliza nell'affetto del ragazzino era la spaccaossa. Un giorno avrò un bambino forte e coraggioso come Tom senza tribù, ma molto più allegro. Questa creatura non ride mai, raccontava a Tao Chien nelle lettere. Babalù il cattivo non riusciva a dormire di notte e trascorreva le lunghe ore di oscurità passeggiando da un estremo all'altro del capannone con i suoi stivali rossi, le sue pelli lise e una coperta sulle spalle. Smise di rasarsi la testa e sfoderò una corta criniera da lupo simile a quella della giacca. Esther gli aveva fatto a maglia un cappellino di lana giallo canarino che lo copriva fino alle orecchie, dandogli un'aria da mostruoso bebè. Fu lui a sentire quella mattina presto un fioco bussare che ebbe la prontezza di non confondere con il frastuono della tormenta. Socchiuse la porta con il revolver in mano e vide una sagoma sdraiata nella neve. Allarmato chiamò Joe e insieme, lottando contro il vento che cercava di divellere la porta, riuscirono a trascinarla dentro. Era un uomo mezzo congelato. Non fu semplice rianimare il visitatore. Mentre Babalù lo frizionava e cercava di fargli inghiottire del brandy, Joe svegliò le donne. Ravvivarono il fuoco delle stufe, misero dell'acqua a scaldare per riempire la vasca da bagno, dove lo tennero immerso fino a poco si riebbe, perse il colorito bluastro e riuscì ad articolare qualche parola. Aveva il naso, i piedi e le mani assiderati. Era un contadino dello stato messicano di Sonora, che era venuto ai giacimenti californiani come migliaia di suoi compatrioti, disse. Si chiamava Jack, nome gringo che sicuramente non era il suo, ma d'altronde in quella casa non era il primo a usarne uno falso. Durante le ore successive si trovò diverse volte sulla soglia della morte, ma quando sembrava che ormai non ci fosse più nulla da fare per lui, ritornava dall'altro mondo e inghiottiva qualche sorso di liquore. Verso le 8, quando finalmente la tormenta finì, Joe ordinò a Babalù di chiamare il dottore. Sentendola impartire questa disposizione, il messicano, che rimaneva immobile, respirava gorgogliando come un pesce, aprì gli occhi e urlò un terribile «No!», spaventandoli tutti. Nessuno doveva sapere che si trovava lì. Intimò con una tale ferocia che nessuno osò contraddirlo. Non furono necessarie molte spiegazioni. Era evidente che aveva problemi con la giustizia e quel paese, con la forca in piazza, era l'ultimo al mondo in cui un fuggiasco avrebbe voluto cercare asilo. Solamente la violenza della tormenta l'aveva obbligato a sospingersi da quelle parti. Eliza non disse nulla, ma la reazione dell'uomo non la stupì, odorava di cattiveria. Dopo 3 giorni Jack aveva recuperato parte delle forze, ma gli cadde la punta del naso e iniziarono ad andargli in cancrena 2 dita della mano. Nemmeno allora riuscirono a convincerlo della necessità di ricorrere al medico. Preferiva marcire lentamente piuttosto che finire sulla forca, disse. Joe Spaccaossa riunì la sua gente nell'altra estremità del capannone e a bassa voce deliberarono che bisognava tagliargli le dita. Tutti gli occhi puntarono verso Babalù il cattivo. «Io? Manco morto! Babalù, figlio di una buona donna, vedi di non fare la femminuccia!» esclamò Joe Spaccaossa furibonda. «Fallo tu, Joe, io non ce la faccio!» «Se riesci a squartare un cervo puoi fare anche questo. Cosa saranno mai un paio di miserabili dita?» Una cosa è un animale, un'altra ben diversa è un cristiano. Oh, non ci posso credere. Questo grandissimo figlio di buona donna, con il vostro permesso, ragazze, dice che non può farmi questo favore da niente dopo tutto quello che ho fatto io per lui. Scusami, Joe, ma io non ho mai fatto del male a un essere umano. Ma cosa vai blaterando? Forse che non sei un assassino. Cosa ci facevi in prigione? Avevo rubato del bestiame, confessò il gigante sul punto di scoppiare a piangere per l'umiliazione. «Lo farò io», l'interruppe Eliza, pallida ma determinata. Rimasero a guardarla increduli. Perfino Tom senza tribù sembrava più idoneo a realizzare l'operazione rispetto al delicato cilenito. «Ho bisogno di un coltello ben affilato, di un martello, di un ago, filo e stracci puliti». Babalù si sedette a terra con la grossa testa tra le mani, inorridito, mentre le donne, in rispettoso silenzio, preparavano il necessario. Eliza ripassò quanto appreso da Tao Chien quando estraevano pallotto le ricucivano ferite a sacramento. Se l'aveva fatto allora senza batter ciglio, sarebbe riuscita a farlo anche adesso, decise. La cosa fondamentale, secondo il suo amico, era evitare emorragie e infezioni. Non gli aveva visto fare amputazioni, ma quando curavano gli sciagurati, che arrivavano senza orecchie, commentava che in altre latitudini per lo stesso crimine tagliavano mani e piedi. «L'ascia del boia è rapida, ma non lascia tessuti per coprire i moncherini», aveva detto Tao Chien. Le aveva ripetuto le lezioni del dottore Benizer Hobbs, che aveva pratica di feriti di guerra e gli aveva insegnato come fare. «Fortunatamente in questo caso si tratta solo di 2 dita», pensò Eliza. La spaccaossa saturò di liquore il paziente finché non perse i sensi mentre Eliza disinfettava il coltello scaldandolo sul fuoco. Fece sedere Jack su una sedia, gli fece immergere la mano in un catino con del whisky e poi gliela mise sul bordo del tavolo con le 2 dita ammalate separate dalle altre. Mormorò una delle preghiere magiche di mamma Fresia e quando si sentì pronta fece un segnale silenzioso alle donne affinché tenessero fermo il paziente. Appoggiò il coltello sulle dita e diede un colpo di martello preciso facendo affondare la lama che recise nettamente le ossa e rimase inchiodata nel tavolo. Jack cacciò un urlo che veniva dal fondo delle viscere, ma era talmente intossicato che non si accorse di niente mentre Eliza lo ricuciva ed Esther lo bendava. Nel giro di pochi minuti il supplizio era terminato e Liza rimase a guardare le dita amputate cercando di dominare i conati di vomito, mentre le donne facevano sdraiare Jack su una delle stuoie. Babalù il cattivo, che era rimasto il più lontano possibile dalla scena, si avvicinò timidamente con il suo berretto da bambino in mano. «Sei un vero uomo, Cilenito», mormorò con ammirazione. In marzo Eliza compì silenziosamente 18 anni, in attesa che presto tardi apparisse il suo Joaquin alla porta, come avrebbe fatto qualsiasi uomo nel raggio di 100 miglia, secondo quanto sosteneva Babalù. Jack, il messicano, si rimise in pochi giorni e se la squagliò di notte, senza congedarsi da nessuno, prima che si cicatrizzassero le ferite. Era un tipo sinistro e si rallegrarono tutti della fuga. Parlava assai poco ed era sempre allerta, con un tono di sfida, pronto ad attaccare la più piccola ombra di un'immaginaria provocazione. Non mostrò la minima gratitudine per i favori ricevuti. Al contrario, quando si svegliò dall'ubriacatura e si rese conto che gli avevano amputato le dita con cui sparare, sputò una sfilza di maledizioni e di minacce, giurando che il figlio di buona donna che gli aveva rovinato la mano l'avrebbe pagata con la vita. Allora a Babalù si esaurì la pazienza, lo prese come un bambolotto, lo sollevò alla sua altezza, gli inchiodò addosso gli occhi e gli disse con la vocina dolce che usava quando era sul punto di scoppiare: «Sono stato io, Babalù il cattivo, c'è qualche problema?» Appena gli passò la febbre, Jack cercò di approfittare delle colombe per togliersi qualche sfizio, ma ricevette un coro di rifiuti. Le ragazze non erano disposte a dargli qualcosa gratis e le sue tasche erano vuote, come avevano avuto modo di verificare quando l'avevano spogliato per metterlo nella vasca da bagno la notte in cui era apparso congelato. Joe Spaccaossa si prese la briga di spiegargli che se non gli avessero tagliato le dita avrebbe perso il braccio o la vita e che quindi doveva proprio ringraziare il cielo di essere capitato sotto il suo tetto. Eliza non permetteva a Tom senza tribù di avvicinarglisi e lei stessa lo faceva esclusivamente per passargli da mangiare o per cambiargli le bende, perché quel suo odore di malvagità la disturbava come una presenza tangibile. Nemmeno Babalù poteva sopportarlo e finché rimase in casa si astenne dal parlargli. Considerava le ragazze come sorelle e andava in bestia quando Jack faceva allusioni oscene. Nemmeno in caso di estrema necessità gli sarebbe venuto in mente di ricorrere ai servizi professionali delle sue compagne, mentre per lui sarebbe stato come commettere un incesto. Quando la natura lo incalzava, Babalù si recava nei locali della concorrenza e aveva avvertito il Cilenito che avrebbe dovuto fare altrettanto, nel caso improbabile in cui fosse guarito dalle sue cattive abitudini da signorina. Mentre serviva a Jack un piatto di zuppa, Eliza finalmente osò interrogarlo a proposito di Joaquin Andieta. «Murieta?» chiese lui sospettoso. «Andieta? Non lo conosco». «Forse è la stessa persona», suggerì Eliza. «Cosa vuoi da lui?» «È mio fratello. Sono venuto dal Cile per trovarlo». «E com'è tuo fratello?» «Non molto alto, con i capelli e gli occhi neri, la pelle bianca come me, però non ci assomigliamo. È magro, muscoloso, coraggioso, appassionato. Quando parla, tacciono tutti». «Joaquin Murieta è così, ma non è cileno, è messicano». «Sicuro?» «Sicuro non lo sono di niente, ma se vedo Murieta gli dirò che lo cerchi». La notte successiva se ne andò e non seppero più niente di lui, ma dopo 2 settimane trovarono sulla porta del capannone una borsa con 2 libbre di caffè. Poco dopo Eliza la aprì per preparare la colazione e vide che non si trattava di caffè, ma di oro in polvere. Secondo Joe Spaccaossa poteva provenire da uno qualsiasi dei minatori ammalati che avevano curato in quel periodo, ma Eliza ebbe il presentimento che fosse stato Jack a lasciarla lì come pagamento. Quell'uomo non voleva essere in debito con nessuno. La domenica vennero a sapere che lo sceriffo stava organizzando una squadra di guardie per cercare l'assassino di un minatore. Lo avevano ritrovato nella capanna dove trascorreva da solo l'inverno, con 9 pugnalate nel petto e gli occhi strappati. Del suo oro non c'era traccia e per l'efferatezza del crimine la colpa cadde sugli indiani. Joe Spaccaossa non voleva guai e quindi seppellì le 2 libbre d'oro sotto un rovere e istruì perentoriamente la sua gente a tenere la bocca chiusa, a non citare neanche per scherzo il messicano dalle dita tagliate né la borsa del caffè. Nei 2 mesi successivi, le guardie uccisero mezza dozzina di indiani e si dimenticarono della faccenda perché avevano per le mani problemi più urgenti. Quando fece la sua dignitosa comparsa il capo della tribù per chiedere spiegazioni, fecero fuori anche lui. Indiani, cinesi, neri o mulatti non potevano testimoniare in un processo contro un bianco. James Morton e gli altri 3 quaccheri del paese furono gli unici che osarono affrontare la folla pronta al linciaggio. Disarmati, si piantarono in cerchio intorno al condannato, recitando a memoria i passaggi della Bibbia che proibivano di uccidere un proprio simile, ma la turba li fece allontanare a spintoni. Nessuno seppe del compleanno di Eliza e quindi non lo si festeggiò, ma quella sera del 15 marzo fu comunque memorabile per lei e per tutti gli altri. I clienti erano tornati al capannone. Le colombe erano sempre impegnate, il cilenito strimpellava il piano con sincero entusiasmo e Joe faceva conti ottimisti. L'inverno non era andato così male, dopo tutto. La fase acuta dell'epidemia era passata e sulle stuoie non c'erano più malati. Quella sera una dozzina di minatori stava bevendo con assiduità mentre fuori il vento estirpava i rami dei pini. Più o meno verso le 11 si scatenò l'inferno. Nessuno fu in grado di capire come fosse stato appiccato l'incendio e Joe sospettò sempre dell'altra tenutaria. La legna prese fuoco come si fosse trattato di petardi e in un istante iniziarono a bruciare le tende, gli scialli di seta, i drappi del letto. Tutti scapparono illesi. Riuscirono persino a buttarsi addosso una coperta ed Eliza a prendere al volo la scatola di latta che conteneva le sue preziose lettere. Le fiamme e il fumo avvolsero rapidamente il locale che in meno di 10 minuti ardeva come una torcia, mentre le donne mezze nude, insieme ai loro frastornati clienti, osservavano lo spettacolo totalmente impotenti. Fu allora che Eliza buttò un'occhiata per contare i presenti e si accorse inorridita che mancava Tom senza tribù. Il bambino era rimasto a dormire nel letto comune. Senza sapere come, strappò una coperta dalle spalle di Esther, si coprì la testa e corse trapassando con uno spintone il fragile assito in fiamme, seguita da Babalù che cercava di trattenerla gridando e che non riusciva a capire perché si stesse buttando nel fuoco. Trovò il bambino in piedi nella coltre di fumo, con gli occhi spaventati ma perfettamente calmo. Gli buttò la coperta addosso e cercò di prenderlo in braccio, ma era molto pesante e un accesso di tosse la piegò in due. Cadde in ginocchio e spinse Tom a correre fuori, ma lui non si mosse ed entrambi si sarebbero ridotti in cenere se Babalù non fosse apparso in quell'istante e non se ne fosse preso uno per braccio come pacchetti, per poi uscire con loro di corsa in mezzo all'ovazione di chi attendeva fuori. «Maledetto ragazzino, cosa ci facevi lì dentro?» Joe rimproverava il piccolo indiano, abbracciandolo, baciandolo e dandogli delle pacche per farlo respirare. Se non bruciò mezzo paese, fu solo perché il capannone si trovava isolato, come fece notare più tardi lo sceriffo, che aveva esperienza di incendi, data la frequenza con cui si sviluppavano da quelle parti. Alla vista delle fiammate accorse una dozzina di volontari capitanati dal fabbro per cercare di domarle, ma era già tardi e riuscirono a liberare solamente il cavallo di Eliza, del quale nessuno si era ricordato nel trambusto dei primi minuti e che, morto di paura, si trovava ancora legato sotto la sua tettoia. Joe Spaccaossa in quella notte perse tutto quello che possedeva al mondo e per la prima volta la videro soccombere. Con il bambino in braccio assistette alla distruzione senza riuscire a contenere le lacrime. Quando furono rimasti solo tizzoni fumanti, nascose il viso nel petto enorme di Babalù, cui si erano bruciacchiate ciglia e sopracciglia. Visto il cedimento di quella sorta di madre che credevano invulnerabile, le 4 donne in coro scoppiarono in lacrime, in un grappolo di sottovesti, capigliature scarmigliate e carni tremanti. Ma la rete di solidarietà iniziò a funzionare ancora prima che fossero spente le fiamme e in meno di un'ora c'erano alloggi per tutti nelle varie case del paese e uno dei minatori che Joe aveva salvato dalla dissenteria stava organizzando una colletta. Il cilenito, Babalù e il bambino, i 3 uomini della compagnia, trascorsero la notte nella fucina. James Morton collocò 2 materassi con grosse coperte vicino alla forgia, sempre calda, e servì una splendida colazione ai suoi ospiti, preparata con cura dalla sposa del predicatore che di domenica denunciava con voce tuonante lo spudorato esercizio del vizio, come chiamava le attività dei bordelli. «Non è il momento di formalizzarsi, questi poveretti stanno tremando», disse la sposa del reverendo quando si presentò alla fucina con la sua pietanza di lepre, una brocca di cioccolata e biscotti alla cannella. Sempre lei passò poi in rassegna il paese, chiedendo vestiti per le colombe, che erano ancora in sottoveste, e la risposta delle altre signore fu generosa. Evitavano di passare di fronte al locale dell'altra tenutaria, ma avevano avuto qualche rapporto con Joe Spaccaossa durante l'epidemia e la rispettavano. E fu così che le quattro ragazze di vita, per un po' di tempo, andarono in giro vestite da signore, modeste, imbacuccate dai piedi alla testa, fino a quando non riuscirono a ripristinare il loro abbigliamento festaiolo. La notte dell'incendio, la moglie del pastore cercò di portarsi a casa Tom senza tribù, ma il bambino si aggrappò al collo di Babalù e non ci fu modo di strapparlo da lì. Il gigante passò ore insonni con il cilenito rannicchiato in un braccio e il bambino nell'altro, piuttosto seccato dagli sguardi sbalorditi del fabbro. Si tolga pure quell'idea dalla testa, non sono quello che crede lei. Farfugliò indignato, ma senza allontanare nessuno dei due dormienti. La colletta dei minatori e la borsa di caffè sepolta sotto il rovere servirono per far riparare i danni di quella casa così agevole e decorosa che Joe Spaccaossa pensò di rinunciare alla compagnia itinerante per sistemarsi lì. Mentre altri paesi sparivano, quando i minatori si spostavano verso altri filoni, questo cresceva, si consolidava e si stava persino pensando di cambiargli il nome per dargliene uno più dignitoso. Quando fosse finito l'inverno, nuove ondate di avventurieri sarebbero tornate a salire per le pendici della Sierra e l'altra tenutaria si stava già preparando. Joe Spaccaossa poteva contare solo su tre ragazze perché era evidente che il fabbro pensava di sottrarle Esther, ma in qualche modo si sarebbe arrangiata. Con le sue opere di carità si era guadagnata una certa considerazione e non desiderava perderla. Per la prima volta nella sua turbolenta vita si sentiva accettata da una comunità. Tutto ciò era molto più di quanto avesse avuto tra gli olandesi in Pennsylvania e alla sua età l'idea di radicarsi non era del tutto malvagia. Quando fu informata di questi progetti, Eliza decise che se Joaquin Andieta o Murieta non fosse apparso in primavera, avrebbe dovuto congedarsi dai suoi amici e riprendere le ricerche. Disillusioni. Verso la fine dell'autunno, Tao Qian ricevette l'ultima lettera di Eliza, che era passata di mano in mano per vari mesi, seguendo le sue tracce fino a San Francisco. Aveva lasciato Sacramento in aprile. In quella città l'inverno era stato per lui eterno. L'unico sostegno erano state le lettere di Eliza che arrivavano sporadicamente, la speranza che lo spirito di Lin lo localizzasse e l'amicizia con l'altro Zhong Yi. Si era procurato libri di medicina occidentale, si era dedicato con passione al compito di tradurli al suo amico riga per riga, così che tutti e due potessero assorbire contemporaneamente quel sapere tanto diverso da loro. Si resero conto che in Occidente si sapeva ben poco delle piante fondamentali, della prevenzione delle malattie e del qi. L'energia del corpo non veniva menzionata in questi testi, ma in altri aspetti erano molto più progrediti. Con il suo amico passava giornate intere a paragonare e a discutere, ma lo studio non fu una consolazione sufficiente. L'isolamento e la solitudine gli pesavano talmente che abbandonò la sua casupola di assi e il suo giardino di piante medicinali e si trasferì a vivere in un albergo di cinesi, dove perlomeno sentiva parlare la sua lingua e mangiava con gusto. Malgrado i suoi clienti fossero molto poveri e spesso li curasse gratuitamente, aveva messo da parte dei soldi. Se Eliza fosse tornata, si sarebbero sistemati in una casa comoda, pensava. Ma fino a quando fosse rimasto solo, l'albergo era sufficiente. L'altro, Zhong Yi, progettava di commissionare una giovane sposa in Cina e di stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti perché, nonostante la sua condizione di straniero, lì poteva condurre un'esistenza migliore che non nel suo paese. Tao Qian lo ammonì contro la vanità dei loti d'oro, specialmente in America dove si camminava tanto e i Fangwei si sarebbero presi gioco di una donna dai piedi da bambola. Chieda all'intermediario di procurarle una sposa sana e sorridente, tutto il resto non importa, gli consigliò, pensando al fugace transito in questo mondo della sua indimenticabile Lin e a quanto sarebbe stata più felice con i piedi e i polmoni forti di Eliza. Sua moglie doveva sentirsi sperduta, probabilmente non riusciva a orientarsi in quella strana terra. La invocava nelle ore di meditazione, nelle poesie, ma lei non tornò ad apparire nemmeno nei sogni. L'ultima volta che poté stare con Lin fu quel giorno nella stiva della nave, quando lei gli fece visita con il suo vestito di seta verde e le peonie tra i capelli per chiedergli di salvare Liza, ma si trovavano più o meno all'altezza del Perù e da allora erano passati tanta acqua, terra e tempo che sicuramente Lynn stava vagando confusa. Si immaginava il dolce spirito che lo cercava in quello sconfinato continente senza riuscire a localizzarlo. Su suggerimento dello Zhong-Yi fece dipingere un suo ritratto a un artista appena arrivato da Shanghai, un vero genio del tatuaggio e del disegno, che seguì le sue precise istruzioni, ma il risultato non rendeva giustizia alla trasparente bellezza di Lin. Tao Qian costruì un piccolo altare con il quadro di fronte al quale si sedeva a chiamarla. Non capiva perché la solitudine, che prima considerava una benedizione e un lusso, ora gli risultasse insopportabile. Il peggior inconveniente dei suoi anni da marinaio era stata la mancanza di uno spazio privato per la quiete e il silenzio, ma adesso che l'aveva, desiderava la compagnia. Ciò nonostante, l'idea di ordinare una sposa gli sembrava una follia. Già una volta gli spiriti dei suoi avi gli avevano procurato una sposa perfetta, ma dietro quell'apparente buona sorte era nascosta una maledizione. Aveva conosciuto l'amore corrisposto e non sarebbero più tornati i tempi dell'innocenza, quando gli sembrava sufficiente qualsiasi donna dai piedi piccoli e dal buon carattere. Si riteneva condannato a vivere nel ricordo di Lin, perché nessun'altra avrebbe potuto occupare adeguatamente il suo posto. Non desiderava una serva o una concubina, nemmeno il bisogno di avere dei figli che onorassero il suo nome e si occupassero della sua tomba serviva da incentivo. Cercò di spiegarlo all'amico, ma gli si ingarbugliò la lingua perché non c'erano parole con cui esprimere quel tormento. La donna è una creatura utile per il lavoro, la maternità e il piacere, ma nessun uomo istruito e intelligente doveva cercare di fare di lei una compagna, gli aveva detto l'amico l'unica volta che gli aveva confidato i suoi sentimenti. In Cina era sufficiente darsi un'occhiata in giro per capire tale pensiero, ma in America i rapporti tra gli sposi sembravano diversi. Tanto per cominciare, nessuno aveva concubine, almeno dichiaratamente. Le poche famiglie di Fang Wei che Tao Qian aveva conosciuto in quella terra di uomini soli gli risultavano indecifrabili. Non riusciva a immaginare come funzionassero nell'intimità, dato che apparentemente i mariti consideravano le mogli loro pari. Era un mistero che gli interessava indagare come tanti altri di quello straordinario paese. Le prime lettere di Eliza arrivarono al ristorante e siccome la comunità cinese conosceva Tao Qian, non ci mise molto a consegnargliele. Quelle lunghe lettere, ricche di dettagli, erano la sua migliore compagnia. Ricordava Eliza, stupito di sentirne tanto la mancanza, perché non aveva mai pensato che l'amicizia con una donna fosse possibile e men che meno con una di un'altra cultura. L'aveva quasi sempre vista in abiti maschili, ma gli sembrava del tutto femminile e lo meravigliava che la gente credesse al suo aspetto senza fare domande. «Gli uomini non guardano gli altri uomini e le donne mi credono un ragazzo effeminato», gli aveva scritto in una lettera. Per lui, invece, era la ragazza vestita di bianco cui aveva tolto il bustino in una casupola di pescatori a Valparaiso, la malata che si era consegnata senza riserve alle sue cure nella stiva, il corpo tiepido incollato al suo durante le gelide notti sotto un tetto di stoffa, la voce allegra che canticchiava mentre cucinava e il viso dall'espressione grave che lo aiutava a curare i feriti. Non la vedeva più come una bambina, ma come una donna, nonostante le sue ossa minute e il suo volto infantile. Pensava com'era cambiata quando si era tagliata i capelli e si pentiva di non aver conservato la treccia, idea che gli era venuta ma che aveva scartato in quanto imbarazzante espressione di sentimentalismo. Adesso perlomeno avrebbe potuto tenerla tra le mani per invocare la presenza di quell'amica speciale. Durante gli esercizi di meditazione non dimenticava mai di inviarle energia protettiva per aiutarla a sopravvivere alle mille morti e alle disgrazie possibili che cercava di non formulare perché sapeva che chi si compiace nel pensare alla negatività finisce per evocarla. A volte la sognava e si svegliava sudato. Allora indagava la sorte con le sue bacchette degli I Ching per vedere l'invisibile. Negli ambigui messaggi, Eliza appariva sempre in marcia verso la montagna e ciò in parte lo tranquillizzava. Nel settembre 1850, quando la California si trasformò in uno Stato dell'Unione, gli toccò partecipare a una chiassosa celebrazione patriottica. La nazione americana abbracciava ora tutto il continente, dall'Atlantico al Pacifico, In quell'epoca la febbre dell'oro iniziava a trasformarsi in una totale delusione collettiva e Tao vedeva folle di minatori poveri e indeboliti in attesa del loro turno per imbarcarsi e fare ritorno ai loro paesi. I giornali stimavano in più di 90.000 quelli che rimpatriavano. I marinai ormai non disertavano più, al contrario, le navi non erano sufficienti per trasportare tutti quelli che desideravano partire. Un minatore su cinque era morto affogato nei fiumi di malattia o di freddo, molti erano stati assassinati o si erano suicidati con un colpo in testa. Arrivavano ancora stranieri che si erano imbarcati mesi prima, ma l'oro non era più a portata di mano di qualsiasi intrepido munito di bacinella, di pala e di un paio di stivali. L'epoca degli eroi solitari si era conclusa e al loro posto si erano insediate potenti compagnie provviste di macchinari in grado di spaccare le montagne con getti d'acqua. I minatori lavoravano a contratto, ma ad arricchirsi erano gli imprenditori. A caccia di fortuna istantanea, come gli avventurieri del 49, erano però molto più scaltri, come quel sarto ebreo dal nome Levi che si mise a fabbricare pantaloni di tela grossa con doppia cucitura e ribattini metallici, divisa obbligatoria dei lavoratori. Mentre in molti se ne andavano, i cinesi continuavano ad arrivare come formiche silenziose. Spesso Tao Qian traduceva i giornali inglesi per il suo amico Zhong Yi, che apprezzava in modo particolare gli articoli di un certo Jacob Fremont, di cui condivideva il punto di vista. Migliaia di argonauti tornano alle loro case sconfitti perché privi del vello d'oro e la loro odissea si era trasformata in tragedia, ma molti altri, benché poveri, rimangono perché ormai non possono più vivere da un'altra parte. Scriveva: 2 anni in questa terra bella e selvaggia cambiano gli uomini. I pericoli, l'avventura, la salute, la forza vitale di cui si gode in California non si trovano da nessun'altra parte. L'oro ha svolto il suo compito, attirare la gente che sta conquistando questo territorio per trasformarlo nella terra promessa, e da qui indietro non si torna, scriveva Fremont. Per Tao Qian, tuttavia, vivevano in un paradiso di avidi, di gente materialista e impaziente, la cui unica ossessione era arricchirsi più in fretta possibile. Non c'era nutrimento per lo spirito, mentre la violenza e l'ignoranza prosperavano. Da quei mali derivavano tutti gli altri, ne era convinto. Durante i suoi 27 anni ne aveva viste di tutti i colori e non si riteneva una verginella, ma il crollo dei valori e l'impunità dei crimini lo lasciavano sconcertato. Un posto così era destinato a soccombere nella melma dei suoi stessi vizi, sosteneva. Aveva perso la speranza di trovare la pace tanto anelata. Decisamente quello non era il luogo per un aspirante saggio. Perché allora lo attraeva così tanto? Doveva evitare che quella terra lo stregasse, come capitava a tutti quelli che ci mettevano piede. Doveva tornare a Hong Kong o far visita al suo amico Ebenezer Hobbs in Inghilterra per studiare e fare pratica insieme a lui. Negli anni trascorsi da quando era stato sequestrato a bordo del Liberty, aveva scritto diverse lettere al medico inglese, ma siccome era sempre in navigazione, per molto tempo non aveva ricevuto risposta finché, alla fine, a Valparaiso, nel febbraio 1849, il capitano John Somers aveva ricevuto una lettera e gliel'aveva consegnata. L'amico gli raccontava che a Londra si stava dedicando alla chirurgia, anche se la sua vera vocazione erano le malattie mentali, un campo nuovo, poco esplorato dalla curiosità scientifica. Progettava di lavorare ancora per un po' a Daifao, la città grande, come i cinesi chiamavano San Francisco. E poi, nel caso in cui Ebenezer Hobbs non avesse risposto in fretta alla sua ultima lettera, di imbarcarsi per la Cina. Era rimasto stupito alla vista di come era cambiata San Francisco in poco più di un anno. Al posto dell'assordante accampamento di casupole e tende che aveva conosciuto, lo aveva ricevuto una città dalle strade ben tracciate e dagli edifici a più piani, organizzata e fiorente, con cantieri per la costruzione di nuove case dappertutto. Un terribile incendio aveva distrutto diversi isolati 3 mesi prima. Si vedevano ancora resti di edifici carbonizzati, ma con la cenere ancora calda. Erano già tutti lì, martello alla mano, a dedicarsi alla ricostruzione. C'erano hotel di lusso con verande e balconi, casinò, bar e ristoranti, vetture eleganti e una moltitudine cosmopolita, mal vestite dalla brutta cera, tra la quale emergevano i cappelli a tuba di un ridotto numero di dandy. Il resto erano tipi barbuti e infangati, con l'aria da imbroglioni, ma lì nessuno era quello che appariva. Lo scaricatore del porto poteva essere un aristocratico latinoamericano e il cocchiere un avvocato di New York. Dopo un minuto di conversazione con uno qualsiasi di questi individui dall'aspetto minaccioso, si poteva scoprire un uomo educato e fine che alla prima opportunità, con le lacrime agli occhi, estraeva dalla tasca una lettera sciupata della moglie. E accadeva anche l'inverso. Sotto l'abito di buon taglio di un damerino raffinato si nascondeva una carogna. Andando verso il centro non notò scuole e vide invece dei bambini che lavoravano come adulti, scavando, trasportando mattoni, incitando muli e lustrando stivali, ma che non appena iniziava a soffiare il forte vento di mare, correvano a far volare gli aquiloni. Più tardi venne a sapere che molti di loro erano orfani e vagavano per le strade in bande rubando cibo per sopravvivere. Di donne ce n'erano ancora poche, e quando qualcuna di loro passeggiava con eleganza per la strada, il traffico si fermava per lasciarla passare. Ai piedi del Telegraph Hill, dove un segnale di bandiera indicava la provenienza delle imbarcazioni che entravano nella baia, si estendeva un quartiere di vari isolati nel quale le donne non mancavano. Era la zona rossa, controllata dai ruffiani, venuti dall'Australia, dalla Tasmania e dalla Nuova Zelanda. Tao Chien aveva sentito parlare di loro e sapeva che era una zona in cui un cinese da solo non poteva avventurarsi dopo il tramonto. Guardando i negozi notò che venivano offerti gli stessi prodotti che aveva visto a Londra. Arrivava tutto via mare ed era giusto perfino un carico di gatti per combattere i topi che erano stati venduti a uno come articoli di lusso. La selva di alberi delle barche abbandonate si era ridotta a una decima parte, perché molte erano state affondate per riempire il terreno su cui poi si costruiva, o erano state trasformate in alberghi, cantine, carceri e persino in un ospizio per malati di mente, dove andavano a morire i disgraziati che si erano persi nel delirio senza ritorno dell'alcol. Era stata una buona idea, perché prima i matti venivano legati agli alberi. Tao Chien si diresse al quartiere cinese e verificò che le voci erano esatte. Nel cuore di San Francisco i suoi compatrioti avevano costruito una vera città in cui si parlava mandarino e cantonese. I cartelli erano scritti in cinese e da ogni parte c'erano solo cinesi. L'illusione di trovarsi nel celeste impero era perfetta. Si stabilì in un hotel decoroso con l'intenzione di praticare la sua professione di medico per il tempo necessario a mettere insieme ancora un po' di soldi in vista del lungo viaggio che lo attendeva. Tuttavia, sarebbe successo qualcosa che avrebbe mandato all'aria i suoi progetti e l'avrebbe trattenuto in quella città. Il mio karma non era trovare la pace in un monastero di montagna, come a volte avevo sognato, ma combattere all'infinito, senza tregua. Avrebbe concluso molti anni più tardi, una volta in grado di guardare al passato e di vedere con chiarezza la strada percorsa e quella ancora da percorrere. Alcuni mesi dopo, in una busta molto mal ridotta, ricevette l'ultima lettera di Eliza.